Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Agganciare la ripresa puntando sull'innovazione. Questo è il titolo di un convegno che si è tenuto il 13 aprile scorso presso l'auditorium di Assolombarda, nato da una collaborazione appunto fra Assolombarda e il Politecnico di Milano. Obiettivo: quello di valorizzare un pacchetto formativo di cui appunto le aziende di Assolombarda, ma in generale le aziende lombarde, potranno approfittare facendo leva, avvalendosi delle molte competenze che sono presenti al Politecnico di Milano. Per Radio 24 al convegno è andato Massimo Di Scienza e ha raccolto la voce del presidente di Assolombarda, Alberto Meomartini. Sentiamo. Noi siamo molto soddisfatti che in questi ultimi anni e in quest'ultimo periodo soprattutto abbiamo dedicato molto risorse, molto impegno a creare rapporti con il sistema formativo, in particolare con l'università. Oggi presentiamo il lavoro e l'opportunità di formazione fatta col Politecnico di Milano, lavoriamo anche con le altre università milanesi. Direi che c'è la convinzione che l'innovazione e la formazione siano motivi fondanti al successo dell'impresa. È forse ancora più vero questo oggi, dopo la crisi. In molti paesi, penso agli Stati Uniti, a Francia e Germania, stanno investendo risorse cospicue come pacchetto anticrisi, e noi che abbiamo meno risorse a disposizione però stiamo lavorando con la stessa intensità. Quindi oggi è una giornata di grande soddisfazione e soprattutto è la conferma che questa strada è la strada giusta. Senza innovazione non c'è business, non c'è il nuovo business, è un po' anche uno dei leitmotiv che sta emergendo dal convegno. Sì, questo è vero, ma emerge anche una convinzione, secondo me, nuova e molto importante, che bisogna innovare anche nel fare innovazione. Cioè, fare innovazione non basta dirlo. Oggi alcune aziende a livello internazionale che soffrono molto sono aziende che hanno investito tantissimo in ricerca, come ci è stato illustrato stamattina, ma hanno investito in ricerca in modo tradizionale. Oggi investire in ricerca significa soprattutto, oltre al lavoro che si fa nella propria azienda, nella propria università, significa collegarsi con altri che fanno ricerca. Bene, abbiamo sentito l'intervento di Meomartini, a questo punto cerchiamo di capire come questo approccio generico, valido un po' in tutti i settori, si può tradurre nel settore del risparmio dell'energia e nel settore anche delle rinnovabili. Ne parliamo con Eugenio Gatti, che è responsabile dell'area progetti della Fondazione Politecnico di Milano. Buonasera Gatti. Buonasera. Allora, come e in che modo voi avete pensato di declinare, insomma, questa offerta di pacchetti formativi nel settore però dell'energia? Beh, l'obiettivo principale dell'iniziativa è quello di offrire al tessuto industriale lombardo, in collaborazione con tutto il sistema di ricerca e di formazione del Politecnico di Milano, un pacchetto integrato di moduli formativi che vadano a raccogliere e a matchare con quella che è l'esigenza di innovazione tecnologica nel settore dell'efficienza energetica manifestato dal tessuto produttivo lombardo, che è, lo sappiamo bene, fatto da piccole e medie imprese che hanno bisogno di riqualificare, di qualificare meglio le competenze al proprio interno, all'interno del capitale umano che forma questo, che insomma il patrimonio poi più importante di ogni impresa. Esatto. Soprattutto medio piccola, soprattutto, esatto, medio piccola, soprattutto medio piccola e soprattutto del tessuto produttivo italiano. Il tessuto industriale italiano e lombardo è fatto nella stragrande maggioranza da piccole e medie imprese, e qui bisogna inventarsi un modello italiano, non si può semplicemente copiare. Prima di arrivare a questa domanda però, che mi interessa molto la sua opinione su questo punto, le faccio una domanda un po' più terra terra. Ecco, ma la impresa che dice bene, voglio approfittare di questa convenzione che esiste fra Assolombarda e Fondazione Politecnico, accedere a questi corsi di formazione, deve pagare? Quanto deve pagare? Può finanziarsi invece in altro modo? Questo è l'altro aspetto interessante. Il valore aggiunto di questa iniziativa è legato al fatto che attraverso l'adesione comunque a fondi interprofessionali che sono gratuiti per le aziende, cioè non vanno a intaccare valori differenziali per quanto riguarda le tasche delle imprese, i corsi che vengono erogati da strutture di Ateneo, dipartimenti dell'Ateneo, sono gratuiti per gli imprenditori, per le imprese che devono banalmente cofinanziare attraverso soltanto le ore uomo dei propri dipendenti che vanno a questi corsi di formazione. Ecco, arriviamo alla domanda che le facevo prima, alla risposta che io ho interrotto. Cosa deve cambiare nel modo delle piccole e medie imprese di pensare all'innovazione perché si possa innescare un meccanismo virtuoso che, insomma, in Italia finora non si è ancora innescato nel settore dell'energia, ma poi un po' più in generale per quanto riguarda l'innovazione? La piccola e media impresa italiana deve imparare a mettersi insieme ad altre imprese, a fare massa critica, però per uscire dalla banalità. Per fare questo l'importante è scegliere bene, aprirsi ad altri imprenditori, aprirsi ai centri di ricerca, siano italiani, siano anche stranieri, europei, mondiali, perché ormai le distanze si accorciano, ma scegliere con cura chi lavora secondo un rigore della ricerca accademica piuttosto che un rigore dei colleghi imprenditori verso il mercato, che di solito nella stragrande maggioranza dei casi dà un risultato. Va bene, dobbiamo chiudere. Grazie Eugenio Gatti. Saluti, buonasera. Anche per oggi è tutto, Mr. Kilowatt torna lunedì, parleremo di biogas. Per chi non riesce a seguirci per via radiofonica, le puntate di Mr. Kilowatt si possono scaricare dal sito di Radio 24 www.radio24.it. Buon fine settimana.